La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla riapertura al pubblico del balcone della sala del Mappamondo di Palazzo Venezia a Roma, ovvero il luogo dal quale Benito Mussolini dichiarò guerra alla Francia e al Regno Unito il 10 giugno del 1940. Ospite ai nostri microfoni Sabino Cassese, giudice costituzionale e autore del libro Lo Stato Fascista, edito dal Mulino. In quella stanza, narrano le cronache di allora, la luce non veniva mai spenta. Mussolini la teneva sempre accesa per dimostrare agli italiani che il governo era costantemente al lavoro, anche di notte. Era la sala del Mappamondo di Palazzo Venezia a Roma, sede del quartier generale del fascismo, oggi utilizzata per le mostre. Da quel balcone il duce si affacciò per arringare le folle e lanciare i suoi proclami e per dichiarare guerra alla Francia e al Regno Unito il 10 giugno del 1940. Oggi quel balcone, conosciuto a tutti noi per le pellicole in bianco e nero dell'Istituto Luce, riapre al pubblico, dopo un accurato restauro che ha interessato l'intera facciata dell'edificio. A dare la notizia è stato lo scorso 31 gennaio il sottosegretario ai beni culturali del Comune di Roma, Francesco Maria Giro. Era tenuto in maniera indecente, ha commentato Giro. Il balcone era ormai adibito a deposito di attrezzature tecniche, praticamente un magazzino. Cade la damnatio memoriae del balcone, ha aggiunto, ma nessuna tentazione revisionista. Una cosa è il balcone, una cosa è l'uomo, ha spiegato. È giunto il momento di superare questo tabù. Anche il presidente Napolitano ha visitato la stanza e ha commentato: beh, questo balcone è veramente piccolo. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La notizia della riapertura al pubblico del famoso balcone del Duce ha riaperto la discussione sulla natura del fascismo. Una chiave interessante di interpretazione ci viene offerta dal libro di Sabino Cassese, insigne giurista, tra i maggiori esperti di problemi dello Stato e dell'amministrazione pubblica, ex ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi del 1993 e attuale giudice costituzionale. Il fascismo si proclamò totalitario e corporativo, ma non fu interamente né l'uno né l'altro. Pretese di erigere un nuovo Stato, ma riutilizzò abbondantemente elementi e residui dello Stato liberale. Autoritario e dittatoriale, concentrò il potere pubblico, ma accettò anche una sua limitata pluralizzazione. Incorporò gli organismi di resistenza economica, eliminò libere elezioni, creò un surrogato della rappresentanza politica, si valse di organizzazioni satelliti, ma ricorse ad amministrazioni parallele per gestire la crisi economica. Lo Stato fascista si proclamò antiliberale e totalitario, sottolineò la cesura tra regime liberale e fascismo, enfatizzò la cosiddetta rivoluzione fascista. Tuttavia, governò in larga misura utilizzando le istituzioni prefasciste. Il titolo del libro è Lo Stato Fascista ed è pubblicato dal Mulino. Buonasera, professor Cassese, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Professor Cassese, dal suo libro emerge, in sostanza, che ci fu, come dire, una sorta di continuità, seppur rappresentata da un regime autoritario e dittatoriale, tra lo Stato liberale e il fascismo. È corretto? Sì, esatto. In sostanza, dalle ricerche che ho compiuto, sia per la preparazione di questo libro, sia in precedenza, perché i miei interessi per le istituzioni del fascismo risalgono a molti anni indietro, risalta questo aspetto importante, che il fascismo fu, come dire, abile nell'utilizzare gli elementi tipici dello Stato autoritario liberale che si era realizzato in Italia, spesso valorizzando elementi della prima fase, cioè della destra storica, prima della caduta della destra e prima dell'andata al potere della sinistra in Italia, e quindi, come dire, bastarono poche cose al fascismo per cambiare l'Italia, perché recuperò dal passato molti elementi della tradizione autoritaria. Le faccio un esempio. Il Confino, un istituto odioso perché gestito dalla pubblica amministrazione, dalle questure, dai prefetti, senza un regolare processo, si era mandati a Ventotene o in altri posti del Confino, in realtà riprendeva l'istituto del domicilio coatto che era stato introdotto negli primissimi anni dopo l'unità, in un primo momento per combattere quel cosiddetto brigantaggio che costituiva il modo di reazione popolare di coloro che non volevano l'unità d'Italia o che erano insofferenti circa il modo in cui l'unità d'Italia si realizzava. Quindi un elemento forte di continuità. Professor Cassese, il fascismo è un tipico esempio di uno Stato centralizzato, totalitario. Come utilizzò il Duce l'amministrazione pubblica? Lo chiedo a lei, che è un esperto tra i maggiori in Italia proprio di come funziona l'apparato dello Stato. In un modo molto sofisticato. Dunque, innanzitutto non andò a turbare le aspettative di carriera della miriade di meridionali che aspiravano a posti nelle pubbliche amministrazioni. In secondo luogo, realizzò, anche per via dell'importanza che dette a Beneduce, che era un allievo di Nitti, l'idea nittiana che occorresse creare una seconda burocrazia, quelle che sono state chiamate in passato le amministrazioni parallele, e in terzo luogo creò altre burocrazie, per esempio la burocrazia del partito. Un grande industriale, Conti, osservava, se non ricordo male, subito dopo la caduta del fascismo o addirittura durante il fascismo, che il fascismo era riuscito a creare ben 5 burocrazie, perché a quelle che io ho già elencato vanno aggiunte poi le burocrazie del parastato e le burocrazie sindacali. Quindi in realtà che cosa successe? Successe che il potere venne in qualche modo parcellizzato. Ognuno dei fili del potere era nelle mani alla fine di Mussolini, quindi personalizzazione, molto forte personalizzazione del potere, e quindi in qualche modo questo regista che tirava i fili di tutte queste burocrazie riusciva qualche volta a metterle l'una contro l'altra. Alle burocrazie che l'ho elencato bisogna aggiungere l'ultima burocrazia, che era la burocrazia corporativa. E a questo proposito, infatti, nel suo libro lei dedica un capitolo apposito proprio al corporativismo. Ecco, ma come si inserì questa nuova organizzazione che Mussolini immaginò per la gestione del suo potere con questa struttura statuale che lei ha appena delineato? Guardi, anche qui in un modo molto sofisticato, non sto adoperando questo termine per darne una valutazione positiva, certo, ma solo per dire che l'analisi storiografica deve tener conto di alcune particolarità estremamente importanti. Si realizzò innanzitutto limitando la libertà sindacale, perché fu stabilito con la legge Rocco del 26 che esisteva solo un sindacato per ogni categoria, e questo era il sindacato fascista. In secondo luogo quindi limitando il potere dei sindacati, però nello stesso tempo promuovendo i sindacalisti. Se c'è un momento della storia d'Italia nella quale i sindacalisti fanno delle grandi carriere e arrivano nel governo in senso proprio, ministri, sottosegretari, questo è il fascismo. Quindi due azioni in un certo senso contraddittorie, perché il sindacato viene diminuito, ma i sindacalisti invece trovano una loro strada, penso a Rossoni, a Razza e a tanti altri sindacalisti. In terzo luogo, creando queste stanze di compensazione, che erano le corporazioni, che poi si conclusero con la Camera dei Fasci delle Corporazioni nel 1939, sì, che in qualche modo era un elemento assolutamente nuovo in ogni forma di reggimento statale. Perché? perché nella camera dei fasci delle corporazioni si entrava e si usciva in relazione alla posizione che si aveva o nel partito o nelle corporazioni. Era la camera dei fasci e delle corporazioni, quindi se uno entrava nel Consiglio Nazionale delle Corporazioni o nel Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, entrava automaticamente nella camera, però ne usciva se perdeva il primo posto, quindi il primo posto comportava l'accesso al secondo posto, non più elezioni quindi, neppure plebisciti come c'erano state precedentemente, ma questa che poi i fascisti magnificarono, perché era una sorta di democrazia continua, no? Perché c'era un ricambio teoricamente bella, interessante, ma praticamente molto poco democratica, perché c'era quasi un ricambio continuo dalla società verso la Camera dei Deputati. Il Senato, lei sa, è rimasto immutato, era Senato del Regno e rimase Senato di nomina regia, ma una Camera dei Deputati che, per così dire, cambiava a misura che cambiavano il partito e le corporazioni, diciamo, la politica e l'economia. Un'ultima domanda, professor Cassese, che ne pensa della riapertura al pubblico del balcone del Duce? Direi che, diciamo, come ha detto il sottosegretario che lei ha citato, bisogna distinguere tra le persone, il regime e il balcone. Direi che mi sembra un fatto positivo. A me personalmente è capitato alcuni anni fa di andarci, diciamo, perché è stato accessibile, insomma, ecco, durante una qualche mostra che era stato organizzato a Palazzo Venezia. Mi pare che sia un fatto importante, è bene che la storia venga ricordata sia per i balconi sia per le persone. Molte grazie professore, buon lavoro. Male pare, arrivederci.